Radio Cerrano presenta The Musical Box, programma di musica rock curato da Emidio, Piero e Carlo, che rovista tra la musica del passato e del presente. Buonasera a tutti, benvenuti a The Musical Box, come recitava prima lo stacchetto. Allora, uno l'abbiamo recuperato ed è qui, vicino a noi. Sì, in barba ai virus. In barba ai virus. Siamo tornati qua. E alle maledizioni varie. L'altro, ci vuole un po' di tempo, però l'altro sta bene fisicamente, non vi preoccupate. Quando dico l'altro parlo di Piero, che salutiamo naturalmente. Che, ciao Piero. Che poi mi chiama e mi dice che ci ha sentiti e giustamente... Ti critica? Non molto. Critica più te. No, scherzi a parte. Salutiamo tutti quelli che si sono messi all'ascolto di questo... programma, di questa emittente, anche se insomma è cambiato tutto nel mondo dell'emittenza, ma noi continuiamo a chiamarla emittente, a chiamarla Radio Cerrano Web, che in qualche modo vuole replicare i bei tempi, i fasti delle radio private negli anni 70, 80, le radio libere, ma libere veramente. No, lui è stato un precursore di radio libere, ma libere veramente, perché tu sei stato uno dei creatori di radio alternativa, quei radri, giusto? Sì, con un gruppo di amici abbiamo dato vita a radio alternativa, appunto, negli anni... Correva l'anno? Erano gli anni, fine anni 70. 70, sì. Fine anni 70, sì. Ma credo non, no, 75, 70, metà anni 70. Sì. Perché voi foste i primi, credo. No, c'erano già un paio di radio. No, Radio Atri c'era? Sì, c'era Radio Regina. C'era? Sì, c'erano già. Allora sì, erano fino agli anni 70, è vero. Noi stavamo a Radio Regina. Io stavo a Radio Regina, quell'altro stava a Radio Atri, se non sbaglio. Esatto. Poi ci riunificammo tutti, ci rincontrammo. E poi ci rincontrammo anche a Radio Express, vero Carlo? Esatto, Radio Express, la radio di Italia Radio. Lo sai che ho capito chi è che disse che avevamo fatto la cantina qui? Chi? Secondo me è Master Bubi. Ah. Ci ho preso? Può darsi. Va bene, e bando alle ciance. E, insomma, come dice un po' lo stacchetto, come recitava lo stacchetto, noi stasera, come al solito, cerchiamo un po' di rovistare tra le cose di un tempo. Non tanto, insomma, sempre nella quarantina d'anni comunque. Abbiamo saccheggiato. L'altro ieri. Io saccheggio sempre gli anni Ottanta, mentre Emidio, naturalmente il più giovane della combriccola, fa delle proposte nuove. E quindi niente, vi do un'anticipazione mandando il brano che è di uno degli artisti di cui parleremo. Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry. Forgive me, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me. You can say, baby. You is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you, I love you. But you can say, baby. Sono, sì, correva l'anno 1988 quando Tracy Chapman tirò fuori questo splendido brano Baby Can I Hold You, che insomma ci dà subito la cifra di questa bravissima cantautrice americana. E infatti stasera ho scelto due donne per approfondire un po' il loro operato, in qualche modo. Tracy Chapman e Tracy Thorn, però sono due personalità completamente diverse, poi ne parleremo. Beh, di Chapman dobbiamo dire che è un po', quando uscì il suo album, il suo primo album, si gridò alla, non dico al miracolo, ma in qualche modo a nuova linfa vitale per il cantautorato americano, che un po' prende l'avvio da Bob Dylan in poi. Anche un po' la vita privata, comunque il percorso musicale e anche e soprattutto le tematiche che poi ha sviluppato la Chapman nel corso della sua carriera e che continua a sviluppare, danno l'idea di un cantautorato appunto impegnato, di un cantautorato impegnato sui diritti, sulle povere, anche sulla povera gente, su quelle che sono un po' i guasti del cosiddetto capitalismo, della cosiddetta globalizzazione. Ci sono però anche questo bellissimo brano, ce l'ha confermato, ci sono anche naturalmente degli sprazzi nella produzione. Effettivamente mi ricordo che quando uscì questo primo disco, le riviste all'epoca, sì, consultavamo soprattutto riviste cartacee, Mucchio, Rockerill, eccetera, e tutti osannarono questo disco in maniera... Io dico meritatamente. Esatto, e una volta tanto... Ci ho preso. non era, diciamo, queste lodi non erano immeritate, anzi. Questo primo disco, posso dirlo, probabilmente rimane comunque il suo capolavoro, in effetti. Non lo so, sì, va bene, è una questione di gusti. I primi CD, insomma, degli artisti più importanti, comunque rimangono sempre più carichi, no, di creatività e anche di cose da dire, come mi disse una volta Vecchioni in una vecchia intervista. Ci sono stati degli artisti che si sono espressi al meglio magari nel secondo, terzo, quarto disco. Musicalmente. Vabbè, comunque non ci addentriamo in questo tipo di analisi. No, volevo solamente ricordare che Tracy Chapman iniziò la sua carriera come artista di strada e cantava nei bar, insomma, sì, aveva imparato un po' da piccola a suonare la chitarra, ma si era poi dedicata agli studi. Lei è un'antropologa e anche un po' alcune borse di studio riservate agli studenti un po' più poveri, poté accedere anche ad percorsi anche musicali, perché la cosa che io ho detto anche spesso nel corso delle mie trasmissioni, una cosa importante in America, ma anche in Inghilterra, è che comunque la musica nelle scuole superiori, nelle università, è comunque è importante, e molti autori, cantautori, basta pensare ai Beatles, ma anche ad altri, insomma, hanno cominciato a creare, a essere, ad avvicinarsi appunto al campo musicale nelle scuole. Questa è una cosa che purtroppo... Beh, in America la percentuale di persone, di ragazzi che suonano la chitarra è altissima. Sì, ma anche che suonano strumenti che per noi, insomma, sono attaccati alla memoria della banda, eccetera. Le bande musicali scolastiche sono una istituzione in tutte le scuole. E da noi questa cosa l'abbiamo quasi persa completamente. E quindi, insomma, niente, come al solito stiamo qui a recriminare. Like you owned my life. You never made any sacrifice. Demons ever on my trail. Standing at the crossroads of hell. I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on every side. Think I got my price, which I'll sell all that is mine. Think money rules when all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside. All the reasons why I live my life. Thank you. you'd be willing to compromise. Say all you demons go back to hell. Save my soul, save myself. Save my soul, save myself. Save my soul, save myself. Save my soul, save myself. No, ci stavamo perdendo nei ricordi delle vecchie radio private, no? Quando qualcuno metteva 45 giri degli LP nei 33. succedeva anche questo. Allora, questo è un bellissimo brano, sempre di Tracy Chapman, di cui stiamo tentando una brevissima... Dal secondo album, che è Crossroads. E qui, insomma, secondo me viene fuori anche la... l'anima un po' dell'antropologa, in qualche modo, che si avvicina anche ai suoni un po' africani, come avete potuto ascoltare, e lei comunque è stata sempre molto vicina alle tematiche tipo quelle proposte da Nelson Mandela, e ha partecipato a diversi tour benefici come Human Rights Now o Amnesty International, o quelli di Amnesty International, dove ha cantato insieme ad altri importanti cantanti. Lei è stata sempre molto attenta alle tematiche sociali. E questo credo che sia anche un, a parte una sua caratteristica, ma anche sia un risvolto importante del suo successo. Questo Crossroads uscì nel 1989 e poi fu seguito da Matters of the Heart, che lei, insomma, preparò attraverso una serie di un tour che toccava soprattutto piccoli locali. Questo non fu casuale, ma fu voluto, appunto, per sottolineare quindi anche l'atmosfera abbastanza intima di questo terzo disco, seguito poi da New Beginning, che ebbe un grossissimo successo musicale, commerciale, scusate. Pensate che arrivò a vendere quasi 3 milioni di dischi solo negli Stati Uniti. Tra parentesi, all'interno di questo album poi c'era il successone, diciamo, Give Me One Reason, che vinse il Grammy per la migliore canzone rock in quell'anno. Ed è stato sino ad oggi il singolo di maggior successo per quanto riguarda la carriera della Chapman. Ora noi tutti questi spunti che vi stiamo dando speriamo che arrivino un po' a segno, che vi convincano, soprattutto noi lo diciamo spesso, i più giovani, ma anche quelli che magari in quegli anni hanno sorvolato, no, la carriera di Tracy Chapman, di andarsene un po' a vedere, a sentire. Per fortuna questi sono gli anni della digitalizzazione, sono gli anni della musica liquida, quindi è possibile rintracciare tutto e di più sulla rete. Questo è uno, sì, in streaming, e questa è una grande opportunità. Sì, una grande opportunità per tutti. Noi ce la sognavamo questa opportunità, è vero, in tempi un po' più passati. Un'ultima annotazione prima di passare al terzo brano che conclude questa triade d'ascolto. Dicevo, la Chapman ha dichiarato a un certo punto, no, di essere lesbica. Anche qui c'è questa connotazione socioculturale di una donna che in qualche modo dice al mondo, una donna famosa, dice al mondo quali sono le sue... il suo orientamento sessuale, sì, non mi veniva la parola, e quindi credo che

Me la sono un po' persa. Ce la siamo un po' persi, anche noi si, va bene. Si dedica di più ad altro. Va bene. Invece tu? Adesso io rimango sempre nell'ambito femminile. Ma allora stasera abbiamo fatto un programma anche perché al femminile. So che poi anche tu presenterai un'altra artista donna. E questa qua è un'americana, si chiama, anche lei. Si chiama Kate Knipp. Se ho pronunciato bene, va bene, comunque, vabbè, vi presenterò alcuni brani dal suo ultimo disco, un disco che è uscito nel 2024. Però adesso vi voglio dare un po' di informazioni perché non credo che sono in molti a conoscerla. E Kate Knipp è cresciuta a Concord in California. E in una intervista si racconta, dice che a 13 anni iniziai le mie prime lezioni private di canto, pagate dai miei genitori che mi sostenevano e che sono ancora insieme. Dissi a voce alta a tutti quelli con cui parlavo che un giorno sarei diventata una cantante famosa. Pensavo che se non mi fossi mai arresa e avessi lavorato sodo, qualcosa sarebbe sicuramente venuto fuori. Da bambina suonava il clarinetto nella banda della scuola, ma da adolescente scoprì che le piaceva cantare e si unì al coro. E continuò nell'intervista, iniziai a imparare a suonare il pianoforte da autodidatta a 16 anni. Non avevamo un pianoforte a casa, ma il coro e le aule della scuola sì. Quasi tutti i giorni all'ora di pranzo andavo lì e prendevo quello che avevo imparato leggendo gli spartiti del coro e lo traducevo al pianoforte. Avevo un obiettivo ambizioso, suonare e cantare contemporaneamente al concerto pop stagionale. Avevo una mentalità del tipo, gliela faccio vedere io. Ma la soddisfazione di imparare le note è cresciuta e ha creato una dipendenza meravigliosa. Imparò a suonare anche la chitarra intorno a 20 anni, e tutti intorno a lei dicevano che guadagnarsi da vivere con la musica era un'impresa impossibile e le suggerirono di prendere una laurea in medicina. Si iscrisse all'università per conseguire una laurea in anestesiologia, ma scelse anche un corso opzionale di coro. Scoprì rapidamente che la musica era più importante per lei. Continuò a lavorare con un insegnante privato di canto, Joe Barnett, per 8 anni. Si iscrisse al programma di musica presso la scuola di Santa Cruz e infine conseguì la laurea in musica presso la Cal State Hayward. Formò una sua band suonando nei club locali ed ebbe l'opportunità di aprire per altri musicisti, tra cui Robert Cray, Joan Osborne e Rudy Foster, tra gli altri. E vocalmente ha un contralto cupo adatto sia alle ballate al rock, e canta anche brani più soft con molta destrezza. Dopo tutto questo preambolo io direi di iniziare a sentire un primo brano sempre da questo suo ultimo disco, che tra l'altro si chiama Me, è del 2024. Il brano che vi proponiamo si chiama Go. E il brano inizia con un parlato che dice: ho studiato neuroscienze, dicono di non dare troppo peso ai propri pensieri. I pensieri non sono sempre la verità. Ma cosa succede se non riusciamo a fermarci, non riusciamo a smettere di pensare? I've been studying neuroscience. They say not to put too much weight into your thoughts. Thoughts aren't always the truth. But what if I can't stop? What if I can't stop thinking of you? I know you're just trying to get laid. But could you not do this crap in front of me? Like spill that beer over your crooked, excited feet as you bring her another drink. I know you're just trying to be nice, and she also seems nice. Probably agrees with everything you say, everything I yourself late. Go, go, get yourself late. Go, go, get yourself late. Go. Primo brano che vi stiamo presentando di questa cantante americana. Chiaramente, come avete notato, lei ama le sonorità imparentate col blues, l'ha sempre dichiarato. Questo suo ultimo disco, che mi sembra che sia il quinto, se non sbaglio. Poi tra l'altro mi sono procurato, l'ho scoperta ultimamente quasi per caso, mi sono innamorato di quest'artista e chiaramente, come faccio sempre, sono andato a scavare anche nel suo passato. E ho scoperto che tutta la sua produzione discografica è a buon livello. Quest'ultimo è veramente un ottimo album, si è visto già con questo primo brano che si chiamava Go. Vi presentiamo adesso un secondo estratto che si chiama Vampire, che inizia con un ritmo inquietante e rimbalza mentre dichiara: uccidimi come mi ami, come sarò tuo, tuo fino alla fine. Sei adorabile, raccontami tutto il tuo dolore, mordimi il labbro mentre ti bacio sotto la pioggia. La follia è così seducente, questo vampiro su un palco. Ascoltiamo il brano. Yours on una chiusura un po' demodé, un po' classica. So. Lei comunque nel disco suona il pianoforte, suona la chitarra, quindi si esprime anche con vari strumenti. Ne sentiremo ancora parlare, secondo te? Beh, io mi sono innamorato di questa cantante. Ultimamente l'ascolto parecchio. E per concludere la presentazione appunto di questa Katie Knipp, un ultimo estratto dal suo album Me del 2024, questo è un brano un po' particolare, si chiama Dirty Cables, e infatti la sua biografia cita un'amicizia che strinse con Josh Dadami, un ragazzo che frequentava i suoi anni del liceo, con il quale strinse amicizia e scrisse alcune delle sue prime canzoni. Lui soffriva di fibrosi cistica e morì a 26 anni a causa della malattia, di cui venne a conoscenza quando ricevette una chiamata da sua madre mentre si esibiva e ascoltò un messaggio vocale. Dirty Cables racconta il suo ricordo, quindi un disco è un brano dedicato a questo amico morto giovane. Ascoltiamolo. Yeah. bella proposta questa che ci hai Kate proposto. Speriamo di avervi fatto ascoltare un artista che vi abbia affascinato come ha affascinato noi. Beh, sicuramente stiamo parlando, poi si stava discutendo, insomma, si stava parlando un po' di questi. È inevitabile, no? Poi di questi riflessi che arrivano dal passato, no? Sì, tu ci vedevi un po', cioè, no, io dicevi nel microfoni spenti. Nel timbro ricordava Janis Joplin, nel timbro, No, io invece avevo notato una certa similitudine, anche un po' come personaggio a Hani Di Franco. Come personaggio sicuramente. Come personaggio. Comunque volevo concludere con questa artista con un giudizio di Walter Trott, chitarrista che tutti conosciamo, chitarrista blues che non ha bisogno di grosse presentazioni. Walter, quando ha sentito questa cantante, questi dischi, ha detto: non mi commuovevo così tanto da molto tempo, mi ha semplicemente steso. L'ho ascoltato tutto ed è semplicemente straordinario, incredibilmente toccante e bellissimo. Questo è uno degli album più creativi e belli, originali e unici, ispirata e visionaria. Condivido i suoi pensieri. Oh, se questo lo dice Walter Trott, gli dobbiamo credere. Noi sottoscriviamo. Gli dobbiamo credere. Anche qui arriva, no, il consiglio nostro di approfondire, di andare oltre quello che vi diciamo noi. Andatevi a cercare i dischi. Sì, non fate come dice quello che fa l'oroscopo, come si chiama? Fox che dice: non credetemi, ma verificate. Verificate. Vai. Why Does the Wind? Scusate, siamo passati a un'altra signora della musica, siamo passati a un'altra Tracy. In questo una caso, puntata al femminile. Una puntata al femminile, non so però come concluderai tu. Con un maschietto concluderai. No, no. Mica è omosessuale, no. No, no, no. Però abbiamo avuto Tracy Thorn che e Tracy Chapman che era insomma misto, quindi insomma stiamo accontentando un po' tutti, e a parte queste battutacce sessiste, però volevo dire che quella che vi ho proposto è la seconda Tracy del giorno, ed è Tracy Thorn qui in veste di solista. Infatti stasera io la presento in veste di solista, e però lei è molto più conosciuta come voce del famoso Everything But The Girl, che ormai tutti sapete è un nome del gruppo degli anni '80 che è preso da un negozio che recitava, da una pubblicità del negozio oppure dal negozio stesso, che recitava abbiamo tutto, potete prendere tutto fuorché la ragazza. E quindi Tracy Thorn è ormai una signora attempata, perché credo che non si dicono gli anni delle signore, perché credo che quest'anno compia 60. È la compagna dell'altra metà degli Everything But The Girl. Esatto, è la compagna di Ben Watt, che ha conosciuto nel corso del suo percorso di studi, perché lei iniziò intanto con... lei è nata in un paesino che porta il nome di Brookmans Park, e ha studiato inglese, quindi credo letteratura inglese, nell'università di Hull. Vabbè, però fino adesso dall'Inghilterra, dall'America non sono arrivate proteste per la nostra pronuncia, quindi insomma possiamo no, stare sicuri. No, noi chiediamo scusa per il nostro inglese molto maccheronico, ma soprattutto non ti capisco, il mio. Ma ti capiscono gli italiani se chiedi scusa, quindi è inutile. We are sorry, very sorry about our pronunciation, come dicono i più informati. E poi si è laureata nell'84 ha conosciuto il suo alter ego, il suo compagno, comunque proprio all'università di Hull, e quindi poi qui è nato il sodalizio, musicale. Anche se dagli 80 agli 83, dal 1980 al 1983, lei ha esordito in una formazione che portava il nome di Marine Girls, ed era la sua, ed era anche colei che scriveva i testi di questo gruppo, suonando la chitarra e cantando. Insomma, era un po' il deus ex machina di tutto. Poi si è specializzata nel basso, perché lei è bassista negli Everything But The Girl, suona il basso, anche canta naturalmente. Questo gruppo comunque realizzò due dischi, due album, Beach Party e Lazy Way, parliamo del 1981-83. E tre singoli, quindi insomma era un po' si era instradate un po' verso, non dico il successo, però verso una carriera che le vedeva impegnata appunto in questo gruppo. Poi invece la Thorn incontrò Ben Watt all'università, come vi dicevo prima, e da qui poi entrambi erano studenti, da qui poi nacque questo sodalizio. All'inizio, in effetti, la Thorn fu messa sotto contratto dalla Cherry Red Records, ma anche Ben Watt fu messo sotto contratto, quindi poi Galeotta fu la casa di produzione e chi li ha invogliati. Andiamo col brano. Thank you. walked down the street as the snow started falling, stamping our feet, all the taxicabs crawling. You said, I'm so cold I can't remember my name, and I said the same. He took a photo and said he adored her, a New York martini, it literally floored her. And we played Miss America over again, and again and again. Oh, and that was a New York Christmas, baby. Now years have gone by and we're all so much older. The winter's got warmer than last year's got colder. And we've all learned some things about how the time goes that we'd rather not know. Oh, but that was a New York Christmas, baby. Snowflakes like diamonds in our hair, and we watched them all sparkle and fall. Something almost true was in the air. Emidio a microfoni spenti mi chiedeva ma per il perché di questa scelta, no, della Thorn solista piuttosto che della Thorn componente degli Everything But The Girl, ma perché credo che questa sua produzione da solista sia un po' misconosciuta e credo anche che metta in rilievo anche le sue qualità sia di autrice che di musicista, anche di scelte degli arrangiamenti, insomma. Lei che proviene dal punk, lei ha iniziato appunto come molti inglesi, credo, molti autori e musicisti inglesi si sono cimentati nel punk per poi proseguire la loro strada un po' più raffinata, e la Thorn è una di quelli che hanno messo in mostra questa raffinatezza. Secondo me la voce è splendida e anche la scelta degli arrangiamenti, come dicevo, sia negli Everything But The Girl che nelle sue uscite da solista. E si stava anche un po' chiacchierando qui delle vicissitudini di carattere della salute del compagno Ben Watt, che dal 90 al 94 credo abbia avuto problemi con una malattia autoimmune, e poi invece anche dei successi che sono arrivati. Parliamo di successi discografici anche, ecco, come vedete, sì, io propongo la Tracy Thorn solista, per voi è inevitabile, no, che si arrivi anche all'ambire e a entrare nelle vicende musicali del duo. Dicevo, loro hanno avuto maggior successo con alcune rivisitazioni, remix, hanno venduto in molti dischi con molti dischi che hanno visto un po' la produzione di DJ famosi. Ultimamente si sono rivisti, credo nel 2023 hanno tirato fuori un altro CD. Non è stato un grande exploit, però comunque ha fatto ascoltare e vedere che loro ci sono ancora, e soprattutto c'è questa splendida voce, secondo me una delle più belle voci del panorama musicale inglese negli ultimi 20-25 anni. Don't mess with me, don't hurt my babies, I'll come for you. You'll find you've bitten off more than you can chew. You are the man, but I'm not your baby. I get so scared, I know. in effetti possiamo spumare un brano che dura circa 8 minuti e mezzo, ce lo possiamo permettere. Questo era Sister, tratto da un album nel 2018 che è Record, e in questo brano Tracy Thorn duetta con eccolo, ritrovo, Bailey Ray. Sì, Bailey Ray. È un album che ha riscosso un discreto successo, sì, soprattutto sì, di critica, se non sbaglio. Non tanto di... È un buon successo anche commerciale, tutto sommato, sì. Sì. E da questo Emidio... Carlo mi chiedeva come mai non sono intervenuto molto a commento di questa cantante. E io candidamente devo ammettere che come solista non la conoscevo molto, vabbè, a parte la sua partecipazione più volte ricordata, non ti entusiasma? E io più che altro ricordavo una collaborazione in parecchi brani dei Massive Attack. Sì, ma questa è anche la motivazione per la quale l'ho scelta un po' come solista, nel senso che è un artista a 360 gradi e devo dire che insomma si ha le sue collaborazioni, anche le sue entry in determinate, anche in, se non sbaglio, qualcosa con il cinema ha combinato, quindi veramente una poliedrica. Sì, una poliedrica. Secondo me insomma si sono un po' rovinati con quei remix. Vabbè, cioè. punti di vista, Vabbè, punti di vista. Anche loro devono mangiare. Insomma, ti passa la pa... come mi disse. Bene, Erbienko. Allora, dicevamo una trasmissione al femminile, questa quella di oggi. Però... Però adesso un maschietto lo dobbiamo introdurre, non sì. È un maschietto qualsiasi, perché vogliamo chiudere con alcuni brani di un chitarrista veramente notevole che si chiama Eric Clapton, e abbiamo scelto alcuni brani da un suo disco che abbiamo apprezzato particolarmente, il disco del 2024. Non so se è uscito prima o dopo del suo famosissimo, del suo tra l'altro chiacchieratissimo disco, quello con Van Morrison ed altri ospiti, un disco che l'abbiamo presentato tra l'altro anche in questa trasmissione un po' di tempo fa. Sì. Abbiamo detto in sostanza che conteneva dei brani molto interessanti, ma aveva anche delle brutte cadute. Comunque, lasciamo perdere. Questo disco invece è da apprezzare, si chiama To Save a Child, è un disco dal vivo, i cui proventi sono stati devoluti ai bambini di Gaza, a favore dei bambini di Gaza, vittime del conflitto tra Israele e Palestina, che purtroppo è tuttora in corso. Quindi un'iniziativa anche lodevole da questo punto di vista. Un disco bello, è stato registrato tra l'altro, stavo leggendo qui delle informazioni, in un teatro non nemmeno troppo grande, quindi anche la gente, gli spettatori non erano tantissimi, quindi era tutto abbastanza intimo. Infatti il sottotitolo del disco è An Intimate Live Concert. E da questo disco intanto iniziamo a farvi sentire un suo brano famosissimo, che si chiama appunto Tears in Heaven, che sappiamo tutti che era dedicata al suo figlioletto che poi morì tragicamente. Bella questa versione, ascoltiamola. I saw you in heaven. Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on. Thank you. stand. If I saw you in heaven, and I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay. Emozionante, bella versione, bella, sì, versione. Splendida, splendida, emozionante, poi sapendo un po' quello che c'è dietro, veramente una versione stupenda, poi ti tocca le corde del cuore. Bene, sempre da questo buon disco, un altro estratto, e adesso facciamo ascoltare un suo classicone, come si suol dire, Laila, questo era un brano composto da Clapton nel 1971. Ma sono tutti brani? Sì, c'è un paio di brani sono inediti, in massima parte sono riproposte. Bene. Dicevo che Laila lui l'aveva fatto nel 71 ed era ai tempi della collaborazione con il gruppo americano i Derek and the Dominos. Quindi Laila, anche questa è una versione abbastanza acustica, molto bella. Consolation when your man let you down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love, you got me on my knees, hey, love. I'm begging, darling, please, hey, love. Darling, won't you ease my mind? Just make the best of the situation, or I'll finally go insane. Please don't say you'll never find a way. Tell me all my love's in vain. Hey, love, you got me on my knees, hey, love. Begging, darling, please, hey, love. Darling, won't you ease my worried mind? Layla, you got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Ti devo ringraziare, stasera mi hai riconciliato col mondo. Grazie a questi. Bene, allora purtroppo siamo arrivati all'ultimo brano per questa trasmissione. Sì, siamo e quasi. alziamo un po' il, come dire, il ritmo. Infatti adesso presentiamo un brano che è veramente uno dei suoi più rappresentativi, diciamo così. Un brano che lui fece la prima volta con i mitici Cream. Ed era il 10 marzo del 1968. I Cream si trovarono a San Francisco quando, con una cover di un classico blues di Robert Johnson, scrissero una delle pagine più importanti della storia del rock. E adesso lo riproponiamo in questa versione. Stiamo parlando di Crossroads. Anche qui, Crossroads. Thank you. vogliamo dedicare a Vincenzo Butterfly questo, questo splendido assolo di chitarra? Bene, bene, volentieri. Siamo alla fine, siamo arrivati ormai all'epilogo di questa ennesima puntata di The Musical Box, questa scatola magica musicale che noi qui di Radio Cerrano Web vi proponiamo settimanalmente, qualche volta il giovedì, qualche volta il venerdì, qualche volta in due, qualche volta in uno, in tre, insomma siamo un po' così poliedrici anche noi sotto questo profilo. Però credo che... Beh, l'importante è mantenere alto il profilo musicale. Ma credo che, insomma, in giro non è che ce ne siano tanti, no? Di programmi, se non mettiamo qualcosa, no? Di grossi emittenti, Radio Capital, Radio Monte Carlo anche, insomma... ma anche Radio Virgin, sì, è vero. Qualcosa. Radio Freccia, sì. No, ce ne stanno di buone. Ah, noi stiamo a quei livelli. a parte tutto, vi invitiamo a seguirci. Poi noi siamo ormai anche presto arriverà la registrazione, vero Carlo? Quindi Sì, potete riascoltarci su Internet Archive o ascoltarci bene, quindi bene. Insomma andiamo in replica, salutiamo tutti. Saluto a salutiamo tutti Piero, gli ascoltatori, un saluto particolare a Piero che speriamo di avere quanto prima, e all'appuntamento è un appuntamento alla prossima settimana, non diciamo quando. Va bene.